got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta, e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Questa sera siamo con Giunpa Lahiri. Innanzitutto, bentornata. Indovina chi viene a cena. Grazie. Giunpa Lahiri, che è un ospite già stata ai nostri microfoni in passato, ormai un'italiana potrei dire, no? Lei è americana, magari, di origini bengalesi, una grande scrittrice che conosciamo ormai da anni, che ha deciso di eleggere l'Italia, suo paese non di origine ma quasi adottivo, perché vive in Italia da qualche anno, giusto? Da 3 anni, sì. E sta per partire. Sì. Quindi sta facendo le valigie, diciamo. Purtroppo abbiamo già fatto le valigie e in questo momento siamo in attesa. È una cosa quasi insopportabile perché mi sembra surreale vivere qui a Roma in questo modo, con gli armadi quasi vuoti e con tutte le valigie in attesa. Però il lato positivo è che teniamo la casa a Roma, per cui non è un vero trasloco, sarà un viaggio di 3 mesi e poi torniamo a dicembre per Natale, per un mese e poi di nuovo a Princeton, dove sto per iniziare questo nuovo lavoro, questo un nuovo capitolo della mia vita. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. La sento emozionata e in un certo senso anche triste, mi pare di capire, tristi anche noi perché insomma perdiamo un ospite importante del nostro paese, ma mi viene da dire un'italiana ormai, no? No, gentilissima, a dire il vero è una delle più grandi prove della mia vita, questa partenza, questo distacco dall'Italia, da Roma, soprattutto tutti gli italiani che ormai conosco, no, persone a cui voglio così bene, mi colpisce molto perché quando sono arrivata a Roma 3 anni fa non conoscevo nessuno, zero, qualche persona sì in Italia qua e là, ma a Roma proprio zero. E ormai c'è una serie di saluti, abbracci, è una cosa incredibile, e tutto ciò è grazie alla lingua, questo studio, questa passione. Questi 3 anni sono stati veramente il periodo più splendido, felice, anche fertile dal punto di vista creativo della mia vita. È stato un periodo di trasformazione personale, anche creativa, per cui mi sento cambiata, per cui quando dicono in America, gli amici in America stanno già dicendo ah bentornati, però mi lascia perplessa questa cosa, perché non sarà un ritorno per me, sarà un altro, è un'altra partenza. Arriverò in America di nuovo in qualche modo straniera, è molto attaccata a questa vita italiana che abbiamo creato insieme. Now I'm no longer alone without a dream in my heart, without a love of my own. Sta per uscire un mio nuovo racconto prossimamente su Granta Italia, un racconto che ho scritto quasi un anno fa, d'autunno, nel 2014. Sto scrivendo altri racconti in varie fasi, diciamo, però sto cercando di scrivere una raccolta forse di racconti, o un altro progetto anche un po' più lungo in mente. Ho scritto già delle pagine e poi ho appena accettato una nuova rubrica con la rivista, il supplemento settimanale di Repubblica. Non saranno racconti lì, continuerò a scrivere riflessioni, però sarà molto interessante continuare a scrivere in italiano da lì, da lontano, di nuovo esiliata dalla lingua, con questo oceano immenso tra me e l'italiano. Ho scritto anche recentemente un testo molto molto personale, un diario, un pezzo del mio diario che tengo comunque da sempre, da 3 anni in italiano, quindi ho descritto proprio questo mese, quest'ultimo mese più o meno in Italia, da metà luglio fino a metà agosto, questo periodo struggente per me, molto duro. Però questo diario, questo progetto è stato di grande, grande aiuto, perché sarà pubblicato adesso su Nuovi Argomenti. Più scrivo in italiano, più riesco a raggiungere stranamente una parte molto profonda di me stessa. Questa è la magia di questo percorso in italiano, cioè questa nuova lingua, una lingua cosiddetta straniera, che per me non è più una lingua straniera, eppure resta una lingua straniera, ovviamente, perché non è la mia lingua. Lei lo spiegava anche nell'ultima nostra conversazione, che l'italiano è una lingua tutta sua, no? Un po' come la camera di Virginia Woolf, mi verrebbe da dire, una esatto. Lingua terza rispetto al bengalese, che era la lingua dei genitori, della famiglia, e all'inglese, lingua della scuola, dell'istruzione, della crescita, quindi uno spazio tutto suo. Sì, è un percorso mio, è un percorso linguistico mio, e c'è questa tensione splendida, nel senso non ci appartengo, eppure mi sento completamente legata a questa lingua ormai, in ogni senso, come persona, come scrittrice anche, però certo resta una distanza per forza, resta uno scarto tra me e l'italiano, sarò sempre con i dizionari, cioè saranno le ultime cose che metto nelle valigie, i dizionari, che perché mi servono sempre in ogni momento del giorno, della mia vita qua e anche lì di più. Però è bellissimo questo spostamento verso una nuova lingua e di conseguenza una nuova cultura. Sono diventata stranamente una versione dei miei genitori, che si sentono così sempre divisi, no, in questo modo, tra il mondo in America, l'ambiente lì e il mondo che loro hanno lasciato quasi 50 anni fa, però si sentono sempre legati, attaccati. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Si sia ricreata volontariamente in lei una situazione di esilio o comunque di una costruzione nuova di se stessi, una terra nuova, no? Crede che sia una cosa che è accaduta per caso o l'ha proprio cercata? Probabilmente tutti noi cerchiamo di crearci, no? Senza le radici, che sono comunque pesanti, che ci vengono fornite, sono importanti, ma allo stesso tempo a volte c'è la necessità di tranciarle. Assolutamente, cioè, io cercavo la libertà, no? Cercavo un'altra via, cercavo di affrancarmi da certe cose, una certa pesantezza, un passato per certi versi doloroso in America, una giovinezza straniante, e cercavo un luogo e soprattutto una lingua, un luogo, una cultura mia, però non esiste un luogo, un punto di riferimento per me. Questa è la lezione dell'Italia, perché vengo qui e provo questa connessione forte per Roma, per l'Italia, per l'italiano, per tutto quanto, eppure mi rendo conto sempre della mia posizione ai margini, però non mi angoscia questa distanza, cioè la distanza tra me e l'Italia resta, cioè, però è diverso e non provo la stessa angoscia, lo stesso dolore, forse perché sono adulta, no? È una cosa che ho fatto io, è una cosa, come diceva lei, una cosa ricercato, un percorso ricercato, voluto. Cosa le mancherà di più dell'Italia? Beh, ce l'ha detto, la lingua, gli amici sicuramente, ma c'è qualcos'altro anche a livello sociale che vorrebbe dire, che magari noi stentiamo a vedere da italiani? Si vive diversamente qua, ecco, le persone vengono, restano per 2 o 3 ore, non c'è lo stesso ritmo vorticoso, almeno dal mio punto di vista, c'è una vita qui più spontanea anche, è una cena organizzata all'ultimo, un messaggio che ricevo alle 10 del mattino da un mio amico, mi dice: dai, ceniamo insieme stasera, che dici? E io dico di sì, cioè io sono molto solitaria, no? Sono scrittrice, trascorro tutti i giorni sempre, no? Spesso da sola, lavoro da sola e c'è un ritmo un po' prevedibile, la scrittura richiede un ritmo così, no? Altrimenti, almeno per me, è importante sedermi ogni giorno alla scrivania, pensare, riflettere sulle cose, scrivere se ci riesco. Per cui quest'altra dimensione più morbida, diciamo, meno organizzata, mi fa bene, mi fa proprio bene ed è bellissimo. E cosa non le mancherà del nostro paese? Perché in 3 anni ha avuto sicuramente modo di riflettere anche su alcune opacità, alcuni difetti, magari non quelli che balzano subito agli occhi del turista, ma proprio di chi ci abita. Sì, ci sono delle cose, certo, non mi mancherà un atteggiamento un po' chiuso qui, no? E qui resterò per sempre una straniera, una vera straniera, cioè per quanto provi a parlare bene l'italiano, amare l'Italia, fare, no, tutte le cose qui no, con gli amici, eccetera eccetera, è impossibile, io almeno dal mio punto di vista credo che sia molto difficile, non voglio dire impossibile, ma molto difficile diventare italiano, no? Invece in America è il paese di trasformazione, no? E stranamente credo che quello che ho fatto io in Italia, questo percorso, questo slancio linguistico, culturale, personale, è un percorso molto americano, nel senso in America è un po' il paese di, cioè, sempre pieno di possibilità, tu puoi diventare qualsiasi cosa ed è un po' quasi dato per scontato. Questa cosa. Invece l'Italia resta una società più, più ferma, però bisogna anche menzionare, per esempio, cioè cito Ovidio nel mio libro, no? In altre parole, come, cioè, per me è un testo di grande, grande riferimento. Perché? Perché parla di la metamorfosi, appunto, della trasformazione, di questa possibilità di cambiarsi, di creare una nuova identità, di creare una doppia identità, e questo è un testo no, scritto in latino, e quindi è anche qui in questa cultura, nel senso profondo, è una cosa. Ovidio parla di un aspetto di noi direi primordiale, quindi non è che non esista qui questo concetto, no? Però quello che vedo io nella vita quotidiana, nella società, è un paese più un po' più indietro in quel senso, e vedo anche purtroppo tante persone, soprattutto i giovani qua, no, quelli che vengono a fare, no, la babysitting per i ragazzi, e loro sono frustrati, no? Quelli che hanno 25-30 anni vogliono andare via, vogliono andare in America oppure a Londra oppure a Berlino, che ne so, però dicono che qui è molto molto difficile per loro creare una nuova vita, una vita, a cercare un lavoro soddisfacente, andare avanti. E poi, e queste, sto parlando adesso degli italiani, e poi c'è un'altra categoria, diciamo, gli immigrati, che no, sono molto, veramente delusi qua. non leggo più in inglese da 3 anni di più. A Princeton devo per forza, no, leggere almeno i testi dei miei studenti in inglese, devo valutare i loro, no, la loro scrittura, devo creare uno spazio di nuovo per l'inglese e per tutto ciò che rappresenta l'inglese, perché non è la stessa cosa. In questo momento mi colpisce, cioè, il mio libro, in altre parole, è stato tradotto da qualcun altro in inglese, e loro in America pubblicheranno un'edizione bilingue con il testo, con l'italiano a fronte sulla sinistra, con l'inglese, e questo fa davvero, colpisce moltissimo. Non l'ha tradotto lei, non ha voluto tradurlo lei? No, non volevo tradurre il libro, cioè non ci riesco, è troppo, mi sembra un passo indietro ancora, forse nel futuro ne sarei capace, non lo so, in questo momento però no, è troppo destabilizzante per me. Scrivere una cosa in italiano e poi tradurlo in inglese mi fa male, spiego un po' questa cosa anche nel libro, però fa impressione vedere questo libro in entrambe le lingue, che è un po' il simbolo della mia vita in questo momento, no? In quanto scrittrice anche, per cui è bello, no? Fa impressione, forse sarà una nuova chiave, no? Con cui posso andare avanti, con cui posso costruire magari un nuovo capitolo della mia vita in cui c'è spazio per l'Italia, per l'italiano, e c'è spazio anche per una permanenza in qualche modo anche in America. Ma io mi sento in questo momento veramente, cioè è stato molto liberatorio in ogni senso questo periodo, perché non mi sento più legata ad un paese specifico, mi sento più, cioè riesco a muovermi, spero, più facilmente tra i paesi, tra le lingue. Senta, ho letto che il presidente americano Barack Obama ha messo in valigia per le vacanze estive, in questo giochino che si fa, no, di sapere qual è la lista dei libri che porterà in vacanza il presidente, c'è anche la moglie, il suo romanzo, la seconda volta che lo mette in valigia, l'aveva già messo nel 2013. Credo di sì. Ma forse no, nel 2013 ha comprato il libro, semplicemente, perché è buffo, perché noi abbiamo a Roma poche foto, cose del genere, no? Perché l'appartamento è in affitto, siamo arrivati con qualche valigia, basta. Però Obama ha comprato la moglie il libro qualche mese dopo che è stato pubblicato, e la mia casa editrice in America mi hanno mandato una foto meravigliosa di lui in libreria con la figlia di fianco, una sua figlia di fianco, e nel momento in cui sta proprio comprando questo libro, ed è incredibile, è l'unica foto che abbiamo a casa, diciamo esposta, incorniciata, no? Ma che effetto le fa vedere che Obama compra il suo libro? È incredibile, ogni tanto viene un ospite, un nostro amico italiano, e dice ma va, com'è possibile questa cosa, questa foto? Quindi da 2 anni c'è Obama con noi a casa nostra, visto questa foto con lui, cioè, con questo sorriso, sta comprando questi libri tra l'altro. Beh, intanto complimenti, però Obama non l'ha ancora letto, se l'ha riportato in valigia, bisogna dare una tirata d'orecchia ad Obama. Ma va perdonato, ha avuto da fare. Presidente, certo, immagino di sì, per cui anch'io ci sono nel mio studio tanti libri comprati 2 anni fa che non ho toccato, per cui è normale, è abbastanza. Siamo sempre a cena virtualmente i nostri ospiti. Fra poco si accinge a partire. C'è qualcosa che porta con sé in valigia dal punto di vista della cucina, dei gusti, dell'identità, dei sapori? Non mi dica la pasta, perché quella si trova benissimo in America, lo sappiamo. Però la nostra cucina anche regionale ha delle particolarità che non si trovano ovunque. Si è appassionata a qualcosa da questo punto di vista? In questo momento c'è un impulso isterico di portare tutto, cioè vado in farmacia, compro tutto, tutti i balsami, cioè è una cosa assurda, perché c'è quest'ansia, no? La paura del distacco. Però l'unica cosa che vogliamo veramente portare a casa nostra a Brooklyn è la moka. Quindi così. Siete passati al caffè italiano di moka proprio? Sì, sì, perché secondo me sarebbe troppo triste arrivare a New York e farmi un caffè in un'altra, no, non è possibile, non sarà la stessa cosa, non sarà la stessa cosa dire no, thank you dopo aver comprato queste cose, non dire buongiorno, grazie, arrivederci, quella è la parte più struggente per me, quella assenza di questi gesti, questi saluti. Ma noi aspettiamo il primo romanzo in italiano, quindi l'italiano non l'abbandona e l'aspettiamo in Italia prestissimo, a Natale prestissimo. D'accordo, non grazie, vedo l'ora. Grazie a Jhun Palahiri per essere stata ancora una volta ospite di Indovina chi viene a cena, è un onore sempre per noi, grazie, buon viaggio. Grazie, è stato un immenso piacere, grazie davvero, arrivederci. La puntata di questa sera termina qui, io vi do appuntamento a sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24 alle 23. Da Valentina Furlanetto è tutto, l'augurio di una buona serata. You've got to give.